Beh, nell'ultima parte Emanuele accennava al tema della parola per prendere posizione verso il mondo, che è uno degli aspetti forse più nuovi che stiamo osservando da parte degli adolescenti. E su questo poi andrò un po' a chiedere anche a Elena Marta, visto che ha una capacità di cogliere anche cose che stanno iniziando a succedere, non solo cose che sono successe, sulle quali abbiamo già potuto riflettere, ma cose che stanno succedendo proprio in questo momento. Lo si accennava prima il tema del rischiare la responsabilità. Beh, come adulti rischiare la responsabilità vuol dire accettare anche la possibilità che gli adolescenti ci cambino. E questo è un tema col quale dovremo fare i conti. Manuele citava prima Greta, beh, Greta, Simone, Rami, i ragazzi che sono scesi in piazza per il Friday for Future, sono tutti esempi, per ora esempi simbolici, di nicchia, intuizioni, però sono esempi di un qualcosa di nuovo che sta succedendo nella nostra società. Cioè ci sono ragazzi anche giovanissimi, in questo caso stiamo parlando tendenzialmente di 15-16 anni, quindi l'inizio dell'adolescenza, non gli adolescenti o i giovani di 35 anni, che prendono parola senza chiedere permesso. Cioè non entrano nei contesti degli adulti dicendo ma io il mio modo di vedere è questo. No, prendono parola, dicono rompendo gli schemi quello che per loro è attuale oggi. E ce lo dicono anche con una certa violenza, con una certa forza che ci mette fortemente in scacco. Adesso l'esempio di Greta è forse quello più evidente, ci sono alcuni giornali italiani che la stanno massacrando con una virulenza che non sarebbe spiegabile verso un adolescente, un quindicenne, se non fosse che probabilmente si sentono fortemente minacciati da questa ragazzina e da tutto quello che sta dietro a questa ragazzina, perché è chiaro che un quindicenne da solo non cambia il mondo. Ma sta succedendo qualcosa, sta cambiando qualcosa. Lo fa rompendo gli schemi, lo fa in un modo che è totalmente nuovo. L'ha fatto in un modo totalmente nuovo quel ragazzino a Roma che è andato davanti a un gruppo di Casa Pound, quindi di estremisti, da solo a dire che non gli stava bene. Sono modi dirompenti e diversi di prendere parola, fuori dai nostri schemi. Se li leggiamo con i nostri schemi, non ce la facciamo, non andiamo da nessuna parte. Li incaselliamo in un qualcosa che finisce subito. È ben oltre. Allora non sappiamo oggi se questo prendere parola senza chiedere permesso da parte degli adolescenti è la strada che cambierà il nostro futuro. Sicuramente è un elemento di perturbazione molto importante, perché probabilmente da questo elemento di perturbazione nei prossimi anni avremo anche dei significati diversi con cui rileggere il rapporto tra gli adolescenti e il modo di partecipare degli adolescenti alla vita sociale, quella nascita sociale di cui parlavamo prima, che è uno dei compiti tipici dell'adolescenza e che oggi forse sta trovando una sua nuova strada. Allora su questo io ridò la parola a Elena Marta per chiederle un po' il tema del come si stanno costruendo, come si stanno definendo questi valori, questo modo di rappresentarsi nel mondo e questo modo di prendere parola nel mondo da parte degli adolescenti. Sì, solo due cose perché molto ha già detto Massimo, però ci sono appunto in questo rapporto di ricerca alcuni dati che forse non sono così attesi. Uno rispetto, come dice Emanuele, il tema dei valori civici. Perché se pensiamo a come vengono descritti questi adolescenti, sono senza valori, non sono prosociali, non gli interessa niente, stanno solo sul divano. Poi in realtà, se andiamo a vedere, dichiarano appunto di volersi impegnare per una causa comune, di avere a cuore l'interesse del loro paese. Certo, non riconoscono tutto questo come costruzione di un bene comune e di un progetto comune, fanno fatica a ricollocarlo nell'ambito della politica, ma non perché non gli interessi la gestione della polis, adesso, ma perché faticano a riconoscere nel modo in cui gli adulti oggi fanno politica un bene comune. Questo è il problema. Questo è un dato che ricorre in questa ricerca e che ricorre in altre ricerche che abbiamo fatto sempre con questionari e focus, che ricorre in una ricerca nazionale che abbiamo fatto su questo. Non è vero che ai ragazzi non interessi nulla del contesto sociale, non a tutti, non sto dicendo che sono di tutti a spintonare per potersi occupare del contesto sociale, ma c'è una buona percentuale che un interesse per il bene comune ce l'ha. Il problema è che già in questa fase della vita il passaggio dall'atteggiamento, dal pensiero all'azione non è semplice, perché già non sai bene come puoi farlo. Già sei in un contesto in cui patisci più che altre generazioni di adolescenti del passato lo sguardo dell'altro, e quindi se sbagli ti senti in una situazione di vergogna. Se in più non hai modelli forti in cui credere, ma forti non vuol dire l'uomo forte, vuol dire modelli solidi, che trasmettano dei valori, che siano convincenti, che diano l'idea di un bene comune, allora questa diventa un'impresa impossibile. Ma i ragazzi l'hanno proprio detto, ma non in questi focus che io non ho fatto, ma in focus analoghi. Ho detto, ma scusi prof, ma secondo lei, ma di quello lì che dice bellissime cose, e poi io leggo la sua su internet, che cosa ha fatto? E poi leggo su un altro, e poi discuto col mio compagno, dove la coerenza è pari a zero, ma secondo lei io mi devo fidare? Certo, la risposta potrebbe essere no, che non ti devi fidare, o la risposta potrebbe essere ma accanto a quello che sbaglia vai a cercare quello che forse non sbaglia, vai a cercare quello che ti testimonia dei valori, perché santa polenta, anche nel mondo della politica mica sono tutti ladri, corrotti e delinquenti, ok? Anche, di nuovo, c'è uno sguardo adulto che trasmette solo un certo modo di fare politica, che è quello che passa e che è quello che gli impedisce di vedere che invece anche attraverso l'azione politica posso costruire bene comune. Anzi, è proprio attraverso l'azione politica che dovrei poter costruire bene comune. Ma la loro disponibilità c'è. Io faccio sempre questo esempio, non so se ve l'avevo fatto anche l'anno scorso, ma pensate ad Expo. Ma quanti ragazzi sono arrivati ad Expo? E qualcuno, per qualcuno era lavoro, sfruttamento di lavoro minorile, no, ma insomma quasi. Per carità, ognuno può pensarla come vuole. Ma la ricerca che mi ha fatto su Expo, il follow-up, ci ha dimostrato che la gran parte di quei ragazzi, attraverso quell'esperienza, che è stata passata dai CSV come un'esperienza di volontariato, quindi su cui è stata fatta una comunicazione convincente, che non era solo una comunicazione, ma era il tentativo di provare a mettere in circolo rappresentazioni differenti, bene, la gran parte di quei ragazzi lì si sono avvicinati al mondo del volontariato episodico, al mondo del volontariato organizzato, e fino a quel momento non l'avevano mai fatto. E le motivazioni per cui poi sono stati soddisfatti non è stato solo perché ho fatto qualcosa per cui ho avuto il gadget non gliene fregava nessuno. Cos'è che mi è piaciuto di più e che mi ha dato motivazione? La possibilità di avere un confronto intergenerazionale. Guardate, questo è un tema che il mio supervisor di tesi, di dottorato, nel 94 aveva scritto. Lui si è sempre occupato di volontariato e diceva: io credo che il volontariato sia uno dei pochi contesti in cui oggi sia ancora possibile un confronto tra generazioni. Eravamo nel 94, oggi mi sembra che questa cosa possiamo dire profetica, perché è ancora così per molti versi. E questi ragazzi ce l'hanno ridetto. Mi è piaciuto incontrare persone adulte che mi testimoniavano dei valori, con cui ho fatto delle cose, con cui mi sono divertito da matti. Non sapevano usare l'app, eccetera. Io gli insegnavo come usare l'app, ma loro mi hanno insegnato molto di più. Uno. Due. Volevo far bella figura al mio paese. Ma santa polenta! A una generazione che è detta sdraiata, disinteressata, che volevo far fare bella figura al mio paese, volevo dimostrare quanto sono orgoglioso di appartenere a questo paese. Ma stiamo parlando di identità nazionale, in un momento in cui l'identità che passa non è tanto quella nazionale, ma quella del nostro, del piccolo gruppo in cui io mi posso riconoscere e mi consente di avere dei benefici miei. Questi ragazzi, l'orgoglio di appartenere a una comunità più ampia, inclusiva, perché l'altra cosa che questi ragazzi ci hanno detto è stato: l'incontro con le culture diverse mi ha aperto un mondo, mi ha aperto una finestra su cose che non conoscevo e mi ha fatto appassionare. E questi ragazzi sono tornati a fare volontariato. Allora, per dire che sicuramente il mondo del volontariato organizzato, della partecipazione, come ce l'abbiamo in mente noi, loro non ce l'hanno in mente. Sicuramente fanno fatica a stare nei contesti organizzati. Io non so se questo sia un bene o un male, vengo da un mondo del volontariato organizzato e quindi a volte faccio un po' fatica anch'io a capire. Ma quello che capisco è che hanno una spinta ideale, hanno una spinta prosociale che si traduce in modo diverso da come io sono abituata a leggerla, a tradurla, a studiarla, e che quindi anch'io devo fare lo sforzo per capire come agganciare questa spinta prosociale, questi ideali, e pian pianino con loro fargli capire che quello è già fare un'azione sociale, già fare un'azione politica, perché nel momento in cui tu in pubblico e nel sociale ti impegni e investi, stai già costruendo bene comune o stai decidendo di non costruirlo? È questo che gli manca come passaggio, che quell'azione è già politica nel senso più ampio e più nobile del termine, alla Don Milani. Non so se mi sono spiegata. Quindi sono ragazzi che ce l'hanno questa spinta. Bisogna o consentire loro di trasmetterla nelle modalità che sono capaci o aiutarli per arrivare a quel modo a cui noi siamo abituati e che ci sembra essere un modo adeguato. Perché la nostra Greta ha così tanto successo? Ma non è tanto e solo per quello che dice, ma è perché fa vedere che è possibile. Se tu in una cosa ci credi, anche se hai 16 anni, ti stanno ad ascoltare. Poi è diventato anche un fenomeno mediatico, per cui per l'amor del cielo. Ma all'inizio, la ragione per cui tanti ragazzi l'hanno seguita, ho provato a fare un po' sul treno, oppure con le persone che ho intorno, faccio un po' la psicopeste, dico, ma te cosa ne pensi? Ma dimmi un po'. Non è un'indagine ovviamente rappresentativa. Ma alcuni non sapevano neanche bene di che cosa stesse parlando. Ma lei gli ha fatto vedere che è possibile avere voce e averlo anche in modo tutto sommato abbastanza adeguata. Allora credo che in questo i nostri adolescenti un po' vadano accompagnati, rischiando proprio, come dice bene Adriano Zamperini, come si è detto prima, di assumersi anche la responsabilità di offrire dei modelli di costruzione del bene comune. E offrire anche la possibilità di capire che la costruzione del bene comune passa attraverso delle reti e una costruzione comune, che nessuno può costruirlo da solo, né gli operatori, né i politici da soli, contrapponendosi continuamente all'altra parte. Giocare la responsabilità vuol dire giocare una responsabilità sinergica, da adulti che come adulti stanno in questo tempo disorientato e disorientante, non rimpiangono il passato, ma in un qualche modo riescono a mostrare le loro fragilità e quindi dimostrare a questi ragazzi che essere adulto non vuol dire non avere fragilità, ma vuol dirle sapere trattare, ma anche di possedere dei valori e di poterli testimoniare. Guardate che non cercano l'esempio, cercano la testimonianza, che è molto di più dell'esempio. Io faccio sempre questo esempio: tu puoi andare a messa tutte le volte e offri a tuo figlio l'esempio, ma non gli stai dicendo che sei testimone di valori cristiani in cui credi. Perché quello si traduce nel fatto che tu paghi le tasse, per intanto, che tu testimoni certi valori, traduci certi valori, che ti assumi certe responsabilità. Questi ragazzi sono, come dire, hanno delle capacità critiche più sviluppate di quelle che noi pensiamo, sono socialmente competenti più di quello che noi pensiamo e ci beccano subito sull'incoerenza, immediatamente, e sull'essere credibili, sull'essere veri. È così che li aiutiamo a costruire quella bussola interiore di valori per cui possono stare nel mondo e sentire di avere uno spazio nel mondo e voler investire in questo mondo. Viceversa, e anche consentire di fare delle scelte diverse dalle nostre, purché siano consapevoli, siano mature e appunto ci sia quella bussola interiore che ha quella sicurezza, che ha quella fiducia, per cui davvero possiamo un po' uscire da questo tema della liquidità baumiana che ci ha anche un po' stufato e accedere a una dimensione di speranza e di crescita. Perché la liquidità baumiana ha un po' l'idea anche della palude, no? La palude dopo un po' puzza anche, è anche un poco piacevole. Allora piantiamola anche con questa liquidità, proviamo a dare a questi ragazzi la speranza di una generazione adulta che si assume la responsabilità di accettare le loro debolezze e di farle crescere, che lo fa insieme in vista di un bene comune. Io chiederei. Beh, su questo tema di un mondo adulto che si assume la responsabilità, rischia la responsabilità di riconsegnare la speranza del futuro ai ragazzi, credo che non ci sia molto da aggiungere. Chiudo con una storiella, che è proprio una storia vera, fra l'altro. Il giovane tenente di un distaccamento nelle Alpi inviò un'unità nella terra desolata di ghiaccio. Immediatamente prese a nevicare e continuò per 2 giorni. L'unità non tornava. Il tenente soffriva, pensando di aver spedito i suoi uomini incontro alla morte. Ma al 3° giorno l'unità rientrò. Dove erano stati? Come avevano ritrovato la strada? Sì, dissero, ci consideravamo persi e attendevamo la fine. Ma poi uno di noi trovò in tasca una mappa. Questo ci tranquillizzò. Ci accampammo, lasciamo passare la tempesta e poi, con l'aiuto della mappa, riuscimmo a orientarci. Ed eccoci qua. Il tenente chiese in prestito questa straordinaria mappa e la esaminò attentamente. Scoprì con grande stupore che non si trattava di una mappa delle Alpi, ma dei Pirenei. Allora, a cosa servono le mappe? Le mappe non servono a camminare come facciamo adesso col telefono guardando la mappa. Le mappe servono a tutt'altro. Le mappe servono ad alzare lo sguardo e a guardare il mondo che ci sta attorno. E se siamo persi in montagna, guardare una mappa anche dei Pirenei ci aiuta a riscoprire gli elementi di quella montagna. Perché poi, tutto sommato, le montagne sono fatte sempre con una parte in alto e una parte in basso. E se io devo scendere, devo andare verso il basso. Quindi, tutto sommato, anche una mappa che non è precisa mi aiuta a orientarmi. Ecco, io credo che il senso di questo lavoro che abbiamo fatto è quello di fornire delle mappe che ci aiutino a orientarci. Non abbiamo dato risposte certe. Non era la nostra ambizione, sappiamo di non essere perfetti. Quello che vogliamo fare però è dare una mappa, proprio perché guardando questa mappa magari ognuno di noi alza lo sguardo, prova a osservare la realtà che lo circonda, prova a guardare in faccia questi adolescenti, che è il motivo per cui siamo qua, e magari prova a ricostruire significati e con loro a ricostruire significati e dare quella speranza di futuro di cui parlava anche Elena Marta. Non mi resta che chiudere ringraziando sicuramente il Comune, sicuramente l'Università e tutto il team di lavoro, i colleghi dell'Università, i colleghi della cooperativa, ci sono tutti gli elementi, in realtà il lavoro l'hanno fatto loro, noi abbiamo solo dato voce, ma è importante ricordarlo, e ringraziare ovviamente anche tutti voi, perché questo incontro ha senso proprio perché è un incontro di sguardi, di voci e di speranze. Grazie.